next morning time before we got there. That's Yemi on the timer. We're leaving at 5 in the morning. We could get better mileage. That's you in the blue swimmer. What a winner you'd be, God. Thank you. Johnny, the car wiper, hit the street junk sick and broke after 72 hours in a precinct cell. It was a clear, bright day, but there was no warmth in the sun. Johnny shivered with an inner cold. He turned up the collar of his worn, breezy black overcoat. This beat Danny Wooden pawn for a deuce, he thought. He was in the West 90s. A long block of brownstone rooming houses. Here and there, a holly wreath in a clean black window. Danny's senses registered everything sharp and clear with the painful intensity of junk sickness. The light hurt his dilated eyes. He walked past a car, darting his pale blue eyes sideways in quick appraisal. There was a package on the seat, and one of the ventilator windows was unlocked. Danny walked on 10 feet, no one in sight. He snapped his fingers and went through a pantomime of remembering something and wheeled around. No one. Bad setup, he decided. Street get empty like this, I stand out conspicuous. Gotta make it fast. He reached for the ventilator window. A door opened behind him. Danny whipped out a rag and began polishing the car windows. He could feel the man standing behind him. What are you doing? Danny turned as if surprised. Oh, just thought your car windows needed polishing, mister. The man had a frog face and a deep South accent. He was wearing a camel's hair overcoat. My car don't need polishing, nothing stole out of it neither. Danny slid sideways as the man grabbed for him. I wasn't looking to steal nothing, mister. I'm from the South too, Florida. Goddamn sneaking thief. Danny walked away fast and turned a corner. Better get out of the neighborhood. That hick is likely to call the law. He walked 15 blocks, sweat running down his body. There was a raw ache in his lungs. His lips drew back off his yellow teeth in a snarl of desperation. I gotta score somehow, if I had some decent clothes. Then he saw a suitcase standing in a doorway. Good leather. He stopped and pretended to look for a cigarette. Funny, he thought. No one around. Inside, maybe, phoning for a cab. The corner was only a few houses away. Danny took a deep breath and picked up the suitcase. He made the corner, another block, another corner. The case was heavy. I got a score, all right, he thought. Maybe enough for a 16th in a room. Danny shivered and twitched, feeling a warm room and heroin emptying into his vein. Let's have a quick look. He stepped into Morningside Park. No one around. Jesus, I never saw the town this empty. He opened the suitcase. Two long packages in brown wrapping paper. He took one out. It felt like meat. He tore the package open at one end, revealing a woman's naked foot. The toenails were painted with purple-red polish. He dropped the leg with a sneer of disgust. Holy Jesus, he exclaimed. The routines people put down these days. Legs! Well, I got a case anyway. He dumped the other leg out. No bloodstains. He snapped the case shut and walked away. Legs, he muttered. He found the buyer sitting at a table in Harrow's cafeteria. Thought you might be taking the day off, Danny said, putting the case down. The buyer shook his head sadly. I got nobody, so what's Christmas to me? His eyes traveled over the case, poking, testing, looking for flaws. What was in it? Nothing. What's the matter? I don't pay enough. I tell you, there wasn't nothing in it. Okay, so somebody travels with an empty suitcase. Okay, he held up three fingers. For Christ's sake, Skimpy, give me a nickel. You got somebody else, why don't he give you a nickel? It's like I say, the case was empty. Skimpy kicked at the case disparagingly. It's all nicked up and kind of dirty looking. He sniffed suspiciously. How come it stink like that? Mexican leather? So, am I in the leather business? Gimpy shrugged. Could be. He pulled out a roll of bills and peeled off three ones, dropping them on the table behind the napkin dispenser. You want? Okay, Danny picked up the money. You see George the Greek, he asked. Where you been? He got busted 2 days ago. Oh, that's bad. Danny walked out. Now where can I score, he thought. George the Greek had lasted so long, Danny thought of him as permanent. It was good age, too, and no short counts. Danny went up to 103rd and Broadway. Nobody in Harrow, nobody in the Automat. Yeah, he snarled, all the pushers off on the nod someplace. What they care about anybody else? So long as they get it in the vein. What they care about a sick junkie? Wiped his nose with one finger, looking around furtively. There was no one he knew in the 23rd Street Thompson's. Jeez, he thought, where is everybody? He clutched his coat collar together with one hand, looking up and down the street. There's Joey from Brooklyn. I'd know that hat anywhere. Joey, hey, Joey. Joey was walking away with his back to Danny. He turned around. His face was sunken, skull-like. The gray eyes glittered under a greasy gray felt hat. Joey was sniffing at regular intervals. His eyes were watering. No use asking him, Danny thought. They looked at each other with the hatred of disappointment. Guess you heard about George the Greek, Danny said. Yeah, I heard. He'd been up to 103rd. Yeah, just came from there. Nobody around. Nobody around any place, Joey said. I can't even score for goop balls. Well, Merry Christmas, Joey. See ya. Yeah, see ya. Danny was walking fast. He had remembered a croaker on 18th Street. Of course, the croaker had told him not to come back. Still, it was worth trying. Brownstone house with a card in the window. P.H. Zuniga, M.D. Danny rang the bell. He heard slow steps. The door opened and the doctor looked at Danny with bloodshot brown eyes. He said nothing. He just leaned there looking at Danny. Goddamn alcoholic, Danny thought. He smiled. Merry Christmas, doctor. The doctor did not reply. You remember me, doctor. Danny tried to edge past the doctor into the house. I'm sorry to trouble you on Christmas Day, but I've suffered another attack. Attack? Yes, facial neuralgia. Danny twisted one side of his face into a horrible grimace. The doctor recoiled slightly and Danny pushed into the dark hallway. Better shut the door, you'll be catching cold, he said jovially, shoving the door shut. The doctor looked at him, his face focusing visibly. I can't give you a prescription, he said. But doctor, this is a legitimate condition, an emergency, you understand. No prescription impossible, it's against the law. You took an oath, doctor, I'm in agony. Daddy's voice shot up to a hysterical grating whine. Dr. Winston passed a hand over his forehead. Let me think. I can give you one quarter grain tablet. That's all I have in the house. But doctor, a quarter G. The doctor stopped him. If your condition is legitimate, you will not need more. If it isn't, I don't want anything to do with you. Wait right here. The doctor weaved down the hall, leaving a wake of alcoholic breath. He came back and dropped a tablet into Danny's hand. Danny wrapped the tablet in a piece of paper and tucked it away. There is no charge. The doctor put his hand on the doorknob. And now, my dear, but doctor, can't you inject the medication? No, you will obtain longer relief in using orally. Please not to return. The doctor opened the door. Well, this will take the edge off, and I still have money to put down on a room. He thought. Danny put down $2 on a $6 a week room in the West 40s, where he knew the landlord. He bolted the door and put his spoon, needle, and dropper on a table by the bed. He dropped the tablet in the spoon and covered it with a dropper full of water. He held a match under the spoon until the tablet dissolved. He tore a strip of paper, wet it, and wrapped it around the end of the dropper, fitting the needle over the wet paper to make an airtight connection. He dropped the piece of lint from his pocket into the spoon and sucked the liquid into the dropper through the needle, holding the needle in the lint to take up the last drop. Danny's hands trembled with excitement and his breath was quick. With a shot in front of him, his defenses gave way and junk sickness flooded his body. His legs began to twitch and ache. Cramp stirred in his stomach. Tears ran down his face from his smarting, burning eyes. He wrapped a handkerchief around his right arm, holding the end in his teeth. He tucked the handkerchief in and began rubbing his arm to bring out a vein. Guess I can hit that one, he thought, running one finger along a vein. Picked up the dropper in his left hand. Danny heard a groan from the next room, frowned with annoyance, another groan. He could not help listening. He walked across the room, the dropper in his hand, and inclined his ear to the wall. The groans were coming at regular intervals, a horrible, inhuman sound pushed out from the stomach. Danny listened for a full minute. He returned to the bed and sat down. Why don't someone call a doctor, he thought indignantly. It's a bring down. He straightened his arm and poised the needle. He tilted his head, listening again. Oh, for Christ's sake. He tore off the handkerchief and placed the dropper in a water glass, which he hid behind the wastebasket. He stepped into the hall and knocked on the door of the next room. There was no answer. The groans continued. Danny tried the door. It was open. The shade was up and the room was full of light. He'd expected an old person somehow, but the man on the bed was very young, 18 or 20, fully clothed and doubled up with his hands clasped across his stomach. What's wrong, kid? Danny asked. The boy looked at him, his eyes blank with pain. Finally, he got out one word, kidneys. Kidney stones, Danny smiled. I don't mean it's funny, kid, it's just... I faked it so many times, never saw the real thing before. I'll call an ambulance. The boy bit his lip. Won't come. Doctors won't come. The boy hid his face in the pillow. Danny nodded. They figure it's just another junkie throwing a winding for a shot. But your case is legit. Maybe if I went to the hospital and explained things, no, I guess that wouldn't be so good. Danny trailed off. Suddenly he put out his thin, dirty hand and touched the boy's shoulder. I'm sorry, kid. You wait. I'll fix you up. He went back to his room and got the dropper and returned to the boy's room. Roll up your sleeve, kid. The boy fumbled his coat sleeve with a weak hand. That's okay. I'll get it. Danny undid the shirt button at the wrist and pushed the shirt and coat up, barring a thin brown forearm. Danny hesitated, looking at the dropper. Sweat ran down his nose. The boy was looking up at him. Danny shoved the needle in the boy's forearm and watched the liquid drain into the flesh. He straightened up. The boy's face began to relax. He sat up and smiled. Say, that stuff really works, he said. You a doctor, mister? No, kid. The boy lay down, stretching. I feel real sleepy. Didn't sleep all last night. His eyes were closing. Danny walked across the room and pulled the shade down. He went back to his room and closed the door without locking it. He sat on the bed, looking at the empty dropper. It was getting dark outside. Danny's body ached for junk, but it was a dull ache now, dull and hopeless. Suddenly a warm flood pulsed through his veins and broke in his head like a thousand golden speedballs. For Christ's sake, Danny thought, I must have scored for the immaculate fix. The vegetable serenity of junk settled in his tissues. His face went slack and peaceful, and his head fell forward. Danny the car wiper was on the nod. ...451 frammenti sonori, non vi preoccupate, non state ascoltando qualcos'altro, anche se qualcuno magari potrebbe anche essere venuto il sospetto. Forse tre dei personaggi tra i più importanti del Novecento per quanto riguarda la materia pop, nel senso di trattare il popolo, con Burroughs, tra l'altro, che avrete insomma riconosciuto, e per qualcuno che non ha riconosciuto, andate subito insomma a recuperare uno dei punti di riferimento, poi del per dirne una su tutte, dell'industrial nascente di Throbbing Gristle a metà degli anni 70, ma perché no, dell'hip hop con il suo Cut Up. In effetti c'erano Disposable Heroes of Hypocrisy di Michael Franti dentro questo pezzo, e tra l'altro dentro il disco degli anni 90 di William Burroughs c'erano personaggi come Sonic Youth e i vari che nel corso della loro felice, o perché no infelice, Junkies Christmas, così, anche per citare un gioco insomma tra tossico e di poco valore, disfatto anche legato al Natale, passato insomma da un mese, ma che evidentemente non può che essere metafora poi di una un'esistenza, quella di Burroughs, sempre ai limiti, sempre portata su un carattere decisamente esplosivo, terrorismo culturale, con veramente una sorta di imprinting che darà buona parte della controcultura, ma anche di quella che poi è stata considerata dopo tempo insomma cultura, con la C maiuscola, quella della Big Generation di Allen Ginsberg, di Jack Kerouac, che di fatto insomma crea un immaginario. Se pensiamo poi alla cosa, mi fa anche abbastanza sorridere che il termine hipster, che veniva associato agli appena citati, poi è tornato insomma di moda, ma perdendo di valore, quindi veramente a quel punto junkie, ma nel senso veramente di svalutazione, no? E quindi anche di così, tentativi poi anche piuttosto maldestri di rendere più plausibile, più così canalizzare quello che poi di fatto non era, probabilmente non sarà mai canalizzabile. Forse l'unico modo insomma per includere dentro la musificazione e dentro l'accademia Burroughs è quella di dargli lo status appunto di letterato, ma anche lì le operazioni poi fatte giungono quasi sempre a una specie di punto di non ritorno, perché l'opera di Burroughs rimane di fatto aperta, è un punto di riferimento per tutte le devianze sonore che insomma sono partite già negli anni 60 con i primi esperimenti di Cut Up messi poi in maniera audio registrati, poi veramente con una con di fatto una operazione che diverrà mastodontica nel corso della seconda metà del Novecento per importanza, ma per rimandi, per tutto quel sommovimento che riesce a creare, citando un altro grande suo collaboratore, Giesin, quindi anche tutta la pericolosità di uno Barrox, quasi una sorta di guerriglia psichica, letteraria, artistica, ma anche politica, poi anche nel essere diretti, forse anche veramente, anche giocando poi su faccende piuttosto scottanti. Se guardiamo un film come Chappaqua con lo stesso Barrox, i Fags, lì insomma c'è una sorta di proprio di esplosione, di voluta esplosione cerebrale, quasi a portare all'eccesso e alle psichedelie, quello che rinuncia dentro le psichedelie, toglierli quell'alone di peace and love e farla diventare una materia assolutamente defragrante e pazzesca. Ma non solo, appunto, citando l'industrial, citando l'hip hop, parte di anche della faccenda della loop music, quindi che può andare tanto dalle sperimentazioni drone ambientali di Basinski, che prende insomma una sorta di cut-up anch'esso infinito dentro anche proprio materia che si deteriora, quindi dei tape, e che poi vengono appunto montati attraverso la tecnica del cut-up, ma tanto per prendere un esempio di sperimentazione, come invece certa loop music è più magari tra virgolette IDM, Intelligence Dance Music, quindi con tutti gli incastri e stratificazioni che provengono evidentemente dalla grande invenzione del cut-up, appunto barroxiana. Prima abbiamo ascoltato, infatti poi dicevo tre grandi personaggi del Novecento, tout-court, non solo musicali, o forse per Arthur Russell è più musicale, per Naeem Jun Pak ascoltato dopo con qualche minuto, di un'elaborazione di un suono trattato attraverso la televisione, il cello, il TV cello, chiamato una sorta di strumento giocattolo inventato come tanti altri poi da installative musicali e sonore di Naeem Jun Pak. TV cello suonato insieme ai videotape alla fine degli anni 70, quindi un trattamento che è assolutamente fuori dai canoni. Non c'è possibilità, o perlomeno insomma non veniva inteso come tale, appunto lo strumento televisivo e il videotapes, appunto, quindi con questa sgraziatura del suono, che però appunto è un altro modo di utilizzare la materia pop, e lo stesso poi strumentazione pop, la televisione che diventa strumento musicale con un suono cacofonico legato appunto a un cello unito all'audio televisivo, e appunto videotapes che forma un antenato, diciamo così, del suono sgraziato di molto glitch, quindi dell'errore, no? Qua in questo caso analogico, che però appunto di fatto poi in quegli anni, stiamo parlando insomma della grande esplosione popolare del videotapes, quindi l'utilizzo insomma casalingo del formato video, con tutto insomma il portato anche che ci sarà rispetto a questo, se pensiamo insomma ai seriali poi che si creeranno di fatto poi in maniera domestica già in quei momenti appunto di quasi palinsesto creato in maniera così molto estemporanea dai primi insomma amanti delle tecnologie, che comunque appunto da lì a pochissimo, stiamo parlando della metà degli anni 70, diventeranno di massa, e di fatto insomma il videotape è uno dei grandi riferimenti insomma dell'immaginario degli anni 80, che però appunto è rimasticato, quasi mangiato, e quasi anche qua l'arte di NM June Pack è quasi pronta alla cannibalizzazione totale, quindi riesce a mangiare l'immangiabile. In questo senso veramente sono quasi tutti i personaggi, insomma anzi tutti quelli messi stasera da Peter Gordon, Love Life Orchestra, Arthur Russell, NM June Pack, William Barrocks, dei divoratori di junkies, di materia tossica quasi, no? Che però appunto è tossica in termini di consumo portato all'estremo, e anche qua appunto poi anche poi quella deriva tossicomane che c'è sempre dentro Barrocks, che però appunto non arriva mai a, come dire, a definirsi come tale, no? Ma diventa anch'essa parte di tutta una creazione, se pensiamo al Pasto Nudo, no? Uno dei momenti più tossici, più drogati del Novecento, dello stesso film di Cronenberg tenta di così avvicinarsi, per certi versi ci riesce anche, proprio a questo junkies che abbiamo sentito appunto legato al Natale barroxiano, un Natale che appunto non poteva che essere junkies, tossico, sfatto, insomma sfatto, però non nel termine, non nel senso insomma di appunto concludersi in questo, ma nel farsi appunto opera altra, e di fatto insomma continuare questo desiderio che poi diventa appunto nelle corde dell'opera barroxiana, esplosività, diventa anche sabotaggio in tante sue manifestazioni. E con Arthur Russell, NM June Pack, William Barrocks, come dire, si va a chiudere anche una sorta di americanità che è sempre stata molto insomma avulsa anche dal concetto insomma di avanguardia europea. Poi per molti versi insomma chiaro che la faccenda è bene che sia successo così, si è dialettizzato o addirittura scontrata, anche se pensiamo insomma agli happening quasi a modo di scontro di Joseph Beuys con NM June Pack, proprio questi momenti anche decisamente forti dentro appunto un confronto che diventava anche scontro, ma appunto un'americanità che evidentemente non può essere che quella di vivere e di stravivere, anche in questo senso l'iperrealismo, lo stesso prodotto, sottoprodotto della società appunto che ha circondato questi grandi artisti, appunto Russell, NM June Pack, Barrocks, e quello appunto di un consumo spasmodico, o quello di un tentativo di portare tutta l'America verso una specie di demenza assolutamente consumistica, assolutamente dentro appunto e forse definitivamente dentro appunto questo canalizzazione, questo tunnel appunto della merce che diventa il tutto del niente, ecco, anche qua appunto un paradosso che utilizzano in maniera magistrale sia Russell che Peik che Burroughs. E un omaggio che sicuramente avrete sentito, oppure insomma vi consiglio di fare, da 451 intersezioni a un artista che invece, ecco qua, c'entra come il discorso europeo e parte da quello che è stato l'ultimo momento dell'avanguardia storica prima appunto del ritorno all'ordine, del momento terribile appunto dei fascismi e quindi anche di quello che fu il tentativo assoluto di stroncare quello che erano opere degenerate, l'arte degenerata, quindi tutta l'opera dell'avanguardia storica. E inizia appunto Boulez dal serialismo, dal post, poi spostandolo appunto e crea quel post serialismo che sarà fondamentale per lui, ma anche per Karlheinz Stockhausen, come inizio appunto di un percorso che porterà poi all'elettronica e alle musiche di nuova composizione, alla nuova musica intesa in senso lato e anche più stretto in termini compositivi appunto di contemporanea. E Boulez, tra l'altro, in maniera comunque impeccabile in questo senso, come dire, trattare non in maniera junkies la faccenda pop, che poi pop insomma per modo di dire quella di Zappa, collaboreranno i due per buona parte insomma del lavoro di Perfect Stranger e non solo, avranno altre collaborazioni, tra l'altro Zappa con l'ensemble Intercontemporane e farà varie cose, quindi l'ensemble nato proprio attraverso l'opera di Boulez, tra l'altro grande e anche direttore, uno dei punti di riferimento dell'esecuzione anche delle opere d'avanguardia, ma non solo, anche di quelle che avevano in nuce questa possibilità. E Boulez intravede nella musica rock, tra virgolette, pop, tra virgolette, ancora di più, forse doppia di virgolatura, di Frank Zappa, un qualcosa di altro, di diverso, un perfetto straniero, e di fatto dirige la musica di Zappa, che tra l'altro suona il synclaver, questa elettronica, questo strumento elettronico appunto degli anni Ottanta, che illumina Zappa e lo fa tornare insomma alla composizione dopo insomma anni, come accennavo prima, fine anni 70, veramente di così momenti di parodici, autoparodici anche, che invece appunto saranno poi portati verso nuovi lidi nelle composizioni degli anni 80, soprattutto elettroniche, con il synclaver, che suona veramente come qualcosa di assolutamente straniero. E Boulez e Zappa appunto, per omaggiare il grande compositore, il grande direttore, il grande esecutore e grande intellettuale, tutto quello che poi comporta questo anche in termini appunto politici, che Boulez ha sempre voluto sottolineare, e anche in questo caso l'opera insomma di Zappa viene portata e ha delle conseguenze che tra l'altro saranno anche importanti per lo stesso Frank appunto Zappa dopo la collaborazione appunto con Boulez. Il synclaver diventerà lo strumento suo fino appunto alla prematura anch'essa morte di appunto del grande compositore americano, in questo caso appunto diretto dall'altro grande momento assolutamente così perlomeno importante, se non, anche se non vi dovesse piacere la musica, è uno di quegli incontri assolutamente epocali, ma poi la musica c'è e come. Boulez è appunto con Duc Zappa in questo Perfetto Straniero, The Perfect Stranger. Thank you. Insieme a Zappa creano questo, come dicevo prima, perfetto straniero, musiche che sono anche difficili da intendere, pur trattando insomma la materia pop, che è un po' è stato il punto focale di 451 frammenti sonori in mia compagnia, in compagnia di Max Macchi, appunto 451 Popular. E abbiamo voluto omaggiare chiaramente l'arte di Pierre Boulez, coraggiosissimo anche. Beh, d'altronde nei primi anni Ottanta mettesi a fare la musica di Zappa, con lo stesso Zappa, che tra l'altro piuttosto insomma è irrequieto come personaggio, è anche difficile insomma da gestire, ma lo stesso Boulez insomma non era da meno. Quindi si uniscono queste due menti fervide per creare musica trattando il pop in una maniera assolutamente fuori da tutti i canoni e anche dalle composizioni contemporanee, quindi anche dalle sperimentazioni. Ne viene fuori un disco di veramente un fascino dubbio, quella fascinazione dell'alieno. E per concludere, l'alieno che insomma ci ha lasciato un paio di settimane fa, uno dei momenti pop fondamentali del secondo dopoguerra, Berlino, l'incontro con Brian Eno, il Duca Bianco che si trasforma in cantore del muro, ma di un muro che anche qua diventa quasi una specie di icona, sì, mortificante, ma pop nel senso più largo, popular nel senso di straconosciuto, quasi un immaginario metaforico definitivo rispetto a, appunto, e non quello, insomma, di Waters, di The Wall, ma quello, appunto, di un muro che diventa quasi una specie di grande sfida nell'elaborare una musica pop, sì, ma con elementi cosmicheggianti dentro un inno che, ovvio, aveva veramente la testa verso il cosmo. È un Bowie che evidentemente riusciva a incarnare bene le inquietudini di quel periodo berlinese. Vi abbandono, vi lascio appunto a questo ulteriore omaggio, vi rimando a mercoledì prossimo a 451 frammenti sonori e ovviamente 451 intersezioni. Ciao, fate bravi, eh!